C'è un aneddoto che Iedina amava raccontare sui primi anni della sua attività di ricerca sul Concilio di Trento, che forse può essere ricordato per dare un'idea di quella che era la sua prepotente esigenza di uscire dalla ricerca erudita, dalla pubblicazione delle fonti, per approdare ad una storia intesa come visione globale, come quadro d'insieme. Raccontava spesso Iedin che Papa Pio XI gli aveva rivolto un avvertimento di questo tenore, quando aveva saputo dei suoi progetti. Altri avevano iniziato dalla pubblicazione delle fonti e non erano mai arrivati alla composizione del quadro finale. Lui, Iedin, tenendo conto di quei precedenti, doveva partire dal progetto, dalla storia. Si può pensare tuttavia che Iedin non avesse un particolare bisogno di simili avvertimenti. Per quanto tra i suoi lavori non manchino certo edizioni di fonti e per quanto per tutta la sua esistenza di studioso, come risulterà anche dalla relazione domani di Mazzone, Iedin abbia continuato ad essere un editore accurato di fonti, direi che quello che colpisce in una rilettura complessiva adesso, in questa situazione, della sua opera è l'attenzione al quadro generale, all'architettura d'insieme. Né si può dire che questa vigilanza, attenzione al quadro generale, gli costasse fatica, che cioè si scostasse con riluttanza dall'esercitazione erudita per recuperare il quadro d'insieme. Semmai la sua attività di studioso può apparire come una appassionata verifica sulle fonti di una serie di precise convinzioni, di una vera e propria idea dello sviluppo storico. Oggetto di questa, spero breve, comunicazione è il modo in cui queste linee generali del quadro storico vennero disegnate e talvolta sottolineate da Iedin in rapporto alla storia del Concilio di Trento. E in particolare, per evitare anche di ripercorrere i discorsi già fatti, il rapporto che Iedin stabilisce fra il Concilio, il mondo medievale, il mondo moderno. Il primo lavoro censito nella bibliografia delle opere di Iedin è del 1926 e consiste, nella bibliografia di Samulski, e consiste in un breve volumetto d'insieme sul Concilio di Trento. Credo sia emblematico il fatto che colui che doveva dedicare un'intensa opera di scavo sulle fonti alla storia del Concilio di Trento esordisse con una Darstellung complessiva di quella storia. È una caratteristica che ritroveremo costantemente, credo, che fa parte dello stile di storico di Iedin. Anteporre il quadro sintetico all'indagine erudita, non per mettere avanti le convinzioni alle fonti, ma per segnare esattamente i contorni del campo in cui lavorare. Sulla linea interna di questo quadro non è compito mio soffermarmi. Piuttosto sulla periodizzazione generale, sui cavi portanti che connettono quel campo di ricerca all'intelaiatura generale della storia. L'operazione del periodizzare ha attraversato una lunga fase di inattualità, credo, in anni recenti, che solo adesso e limitatamente a qualche momento storico accenna a concludersi. Nel momento in cui Iedin inizia la sua attività, la periodisierung è forse invece l'operazione per eccellenza dello storico, almeno di un certo modello di storico, quella con cui si coronava una lunga attività di studioso, una lunga attività di ricerca, o con cui ci si poteva fare avanti e dire la propria e scegliere il campo in una contesa che investiva questioni somme di Weltanschauung. Come ha ricordato di recente Denis Hay, facendo un bilancio della questione terminologica della periodizzazione relativa al Rinascimento, un'altra di queste etichette nobili, in parte obliterate, all'inizio del secolo la Cambridge Modern History usciva coi primi due volumi dedicati al Rinascimento e alla Riforma, come momenti generativi del mondo moderno. Il fatto, nota Lohay, che tali titoli rispondessero ad un progetto del cattolico Lord Acton non fa che confermare la presa esercitata allora dalla connessione Rinascimento-Riforma nell'Europa settentrionale, come momenti iniziali, fondanti, del mondo moderno, tra virgolette. Come ben noto, su tanta sicurezza di dati anagrafici in materia di nascita del mondo moderno, doveva gettare lo scompiglio il celebre scritto di Troeltsch, che inventando un paleoprotestantesimo sottraeva all'evo moderno proprio quella che era stata considerata l'atto di fondazione, la ribellione di Lutero all'autorità della Chiesa, prima fra le tante ribellioni che dovevano scandire le epoche dell'evo moderno. Tutta quella discussione è cosa ben nota, ma va ricordata perché credo fu su quello sfondo che Iedin venne precisando le sue scelte di campo e le sue convinzioni iniziali. Si ricorderà la sicurezza con cui Troeltsch esponeva nelle prime pagine di quel saggio le sue convinzioni sul quello che lui definiva il metodo costruttivo in storia, cioè quell'operazione, cito, che consiste nel racchiudere il presente in un concetto generale, caratteristico della sua essenza, e nel mettere in relazione questo complesso col passato come gruppo di forze e di tendenze storiche che debbono anch'esse designarsi e caratterizzarsi con concetti generali. Nessuna ricerca storica, diceva Troeltsch, può fare a meno di tali concetti generali. Ora, queste operazioni coi nomi ed i concetti richiedevano evidentemente un forte senso di connessione tra il presente e il passato e una visione in qualche modo ascensionale, progressiva del corso storico. Tutta questa fase della ricerca storica appare ai lettori della mia generazione, soprattutto, credo, dominata dalla storiografia tedesca, e vede ricorrente l'operazione di sceveramento nel passato fra ciò che è vivo, che continua verso il presente, che è l'unico degno di interesse, e ciò che è morto. Ora, non è un caso che sostanziali perplessità e incertezze sul senso della periodizzazione venissero allora da uno storico come Huizinga, che fin dall'inizio si era occupato di ciò che il passato seppelliva per sempre nelle sue ombre piuttosto che di ciò che trasmetteva al futuro, uno storico che vedeva appunto in quel futuro altre ombre, fra l'altro. Ma non so quanto Huizinga e il suo autunno del Medioevo abbiano potuto contare nella formazione di Iedin, mentre invece è facile indicare non pochi motivi che dovettero mantenerlo piuttosto estraneo all'ispirazione di quel modo di procedere. Si dovrà ricordare invece, per la sua prossimità agli inizi dell'attività di Iedin, la relazione che Georg von Below presentò al congresso storico tedesco di Francoforte nel 1924 e che fu dedicato al tema Überhistorische Periodisierung mit besonderem Blick auf die Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit. E qui la cesura fra Medioevo e Età Moderna era indicata al 1500 secondo i criteri di una storiografia eminentemente politica. E anche andranno ricordate cose che tutti conoscono e conoscono meglio di me, andranno ricordati come prodotto tipico di quella cultura storiografica, da un lato il discorso rettorale di Emil Göller, tenuto a Freiburg in Brisgau nel 1919, e il saggio di Heusi di due anni successivo, il primo che affrontava la periodisierung della Kirchengeschichte, i rapporti epocali fra antichità, medioevo ed età moderna, il secondo affrontava con maggiori ambizioni lo stesso schema tripartito dell'antichità, medioevo ed epoca moderna nella storia della Chiesa, le sue origini, la sua possibile utilizzazione in senso tipologico, eccetera, eccetera. In ambedue i casi, all'esame delle questioni di termini e di divisione in periodi, si accompagnava un'opera di periodizzazione intesa come riconsiderazione globale del percorso storico in rapporto con gli esiti nel presente. Ma non è su questo, appunto, che credo valga la pena soffermarsi, quanto sull'atteggiamento che circolava in questa cultura storiografica, che non ha bisogno di essere ulteriormente illustrato, di interesse verso l'operazione periodizzante come strumento per agganciare strettamente passato e presente, per poter considerare il percorso dell'umanità come un percorso con un senso complessivo affidato al presente. Lo stesso interesse per l'opera di Spengler, Il tramonto dell'Occidente, che affiora in questi scritti, va, mi pare, nel senso di collegare il passato all'inquieto presente di quel dopoguerra. Come storico mi pare che Iedin sia rimasto fedele a quella lezione. Accanto a uno scavo documentario continuo, una capacità di verifica sulle fonti che hanno dello straordinario, mi pare continuamente presente nella sua produzione la tendenza a ricomporre in linee sintetiche il quadro storico, a interrogarsi sul rapporto fra il passato e il presente. E anche in sede di pubblicazione di fonti, è questo l'aspetto che emerge, cioè non c'è mai un puro compito di editore, c'è sempre la verifica delle linee generali del quadro storico, la misura degli spostamenti e delle correzioni che la fonte rende necessarie. Questioni di prospettiva, accenni più che consistenti alle linee generali, alle convinzioni con le quali Iedin si avviava alla sua attività di storico, emergono fin dai primi lavori. Non sarà inutile ricordare che l'interesse per lo scritto di Cocleus sul libero arbitrio, veniva motivato da Iedin, lo scritto del 1927, rinviando a due poli che resteranno stabilmente a delineare i punti di riferimento della sua ricerca, Lutero e il Concilio di Trento. La questione della modernità di Lutero era allora cruciale appunto per decidere il momento genetico del mondo moderno. Ma il testo a cui occorre anche in questo caso rifarsi, per vedere su quali colonne poggiasse il programma di lavoro di Iedin, è il bilancio del 1931, Die Erforschung der kirchlichen Reformationsgeschichte. Nella parte propositiva di questo saggio, dove si elencano i compiti che attendono la storiografia cattolica tedesca, Iedin elenca nell'ordine, che è un ordine di difficoltà, come è ben noto, il problema di una migliore conoscenza della verità storica di Lutero, un approfondimento della situazione della Chiesa alla fine del Medioevo, il rapporto fra umanesimo e Chiesa. Il punto d'arrivo di queste e di altre ricerche era per Iedin una storia d'insieme della riforma cattolica e al centro di essa del Concilio di Trento come punto mediano fra il processo di rigenerazione e la reazione contro gli avversari. È un elenco di ricerche che disegna non solo la mappa delle curiosità di uno storico cattolico tedesco a questa data, ma anche una sua presa trasparente di posizione rispetto a periodizzazioni e scelte terminologiche allora discussi. Una comprensione psicologica, tra virgolette, più adeguata di Lutero, non nel senso in cui Lucien Febvre si era mosso qualche anno prima, ma nel senso di intenderne intenzioni e pensieri, in modo da riacquistare un quadro più ricco dei contrasti e delle convergenze dottrinali fra Lutero e gli uomini del Concilio, e già qui si intravedono i risultati delle ricerche su Seripando. La situazione della Chiesa alla fine del Medioevo, come ripresa e allargamento oltre i confini tedeschi del tema affrontato da Janssen, e qui fra l'altro Iedin dà una particolare enfasi alla Volkskundliche Forschung, che purtroppo invece non compare poi sostanziosamente nella sua attività di storico. E quanto all'umanesimo, il suo progetto era di verificare, attraverso un'analisi non astratta né di tipo filosofico, ma dei motivi concreti che portarono interi gruppi di intellettuali umanisticamente formati a schierarsi con la Chiesa o con Lutero, a verificare la fondatezza di quello schema storiografico che vedeva l'umanesimo allearsi con la riforma e partorire il mondo moderno. Riallacciandosi alle opere di von Hoefler e di Gustav Schnürer, Iedin si riprometteva risultati decisivi per la storia della riforma cattolica dallo studio delle correnti riformatrici del tardo Medioevo. E così, se la riforma e l'umanesimo non apparivano più tanto coesi quanto voleva la storiografia protestante, la riforma cattolica del Cinquecento appariva più vasta nello spazio di quanto aveva detto Maurenbrecher, alimentata non solo da una particolare congiuntura politica, ma da profonde correnti riformatrici, e comprendente due momenti: un processo di rigenerazione, Regenerationsprozess, e uno di reazione difensiva, Abwehrkampf. Dal punto di vista della periodizzazione è chiaro che Iedin intendeva prendere posizione rispetto alla questione del rapporto fra Chiesa, la Chiesa del Tridentino e mondo moderno, discutendo appunto la connessione tra umanesimo e riforma luterana e mostrando la compresenza nel Tridentino tra eredità medievali, processo di rinnovamento o rigenerazione e scontro col protestantesimo. La concretezza dei riferimenti e delle indicazioni non nasconde le linee di contorno di un disegno che appare netto e definito. Netto e definito anche nel suo profilo Weltanschaulich. Iedin non ha difficoltà a questa data nel rifiutare nettamente l'idea weberiana della scienza senza presupposti e a dichiarare quali sono i suoi presupposti. Senza presupposti di tipo Weltanschaulich, gli dichiara apertamente, non si può lavorare in campo storiografico. È noto quanto il lavoro che seguì a quel programma gli tenne fede, soprattutto nella concretezza dell'indagine e nella fedeltà a quelle linee. Mi soffermerò solo su alcune delle occasioni in cui Iedin ripercorse le linee di contorno del quadro, perché evidentemente inseguire tutti i riferimenti al quadro generale vorrebbe dire rileggere tutto Iedin. Un primo gruppo di occasioni di questo genere si trovano in prossimità della pubblicazione del primo volume della storia del Concilio, ma non dopo, bensì prima. È tipico di Iedin, mi pare, questo verificare le linee portanti prima di iniziare la costruzione, oppure mentre la costruzione è avviata e sta procedendo, piuttosto che affidare alla somma dell'informazione erudita il compito di far emergere quelle linee. Yedin, come noto, non si è contentato di procedere in questo modo, ma lo ha anche teorizzato esplicitamente in uno scritto che va ricordato, l'esame di coscienza di uno storico, un testo stampato nel maggio 1947, redatto con uno stile alto, pervaso dal senso di responsabilità del dotto dopo la grande frattura della Seconda Guerra Mondiale e della catastrofe della Germania. Yedin, attraverso la recensione del volume di Meinecke, vi fa i conti con tutta una tradizione storiografica, quella dei Diltai, Trelsch, Meinecke stesso, alla quale riconosce il merito di aver tentato di superare il positivismo erudito per giungere ad una storiografia capace di sintesi, capace di ristabilire per l'appunto il nesso tra passato e presente. Dell'importanza di questo nesso, Yedin era talmente convinto da ritenere che non si potesse continuare a praticare, come se niente fosse, il mestiere di storico dopo la frattura provocata dal nazismo e dalla guerra, una frattura tale che lo porta a rievocare il tramonto dell'Occidente di Spengler e l'inadeguatezza delle confutazioni storiche che gli erano state opposte al momento della uscita. Non è il caso di rievocare qui il tipo di storiografia che Yedin contrapponeva in questo scritto sia all'erudizione senza prospettive del positivismo, sia allo storicismo idealistico. Il senso della storia rimane, per lui, cattolico, fuori dalla storia, ma egli era convinto che si potesse e si dovesse praticare una storia prammatica, cioè una storia che sapesse vedere chiaramente gli avvenimenti del passato, cito, così come essi furono, rimanendo capace di riferirsi ai grandi compiti del presente. Di questa storia la periodizzazione doveva costituire una parte significativa. Già nella discussione del libro di Meinecke, Yedin accennava a quelle che gli apparivano, dopo la guerra, dopo l'esperienza della guerra e del nazismo, le lezioni del presente. Da un lato, il peso delle masse nella storia, e con questo si andava oltre il limite politico di quella tradizione ranchiana che ancora nel 1936 Meinecke aveva illustrato in un celebre discorso commemorativo, quella tradizione che qui Yedin traccia con piena consapevolezza. E dall'altro la ricerca delle cause della tragedia mondiale nel processo di scristianizzazione delle masse nel mondo moderno. Quest'ultimo punto è solo accennato, va detto, ma c'è ed è importante. Tutti sanno quale importanza abbia assunto nella storiografia degli ultimi decenni la questione della scristianizzazione, e certo non soltanto nella storiografia, della scristianizzazione vista come processo di estraneazione delle masse dalla Chiesa e dal cristianesimo. Qui Yedin le addebita l'avvio di quel processo che aveva portato al nazismo e alla tragedia della guerra. Ora, varrà la pena di ricordare come la grande crisi tedesca e mondiale degli anni 30-40 si riflettesse nella storiografia in un diffuso rovesciamento di accenti per quanto concerneva la questione delle cosiddette origini del mondo moderno. Se storici come Ritter, come Gerhard Ritter, continuavano ancora sulla via di una storiografia di tipo politico, che aveva affidato a Lutero e alla Riforma il vanto di aver dato origine al mondo moderno, altri invece avvertivano la modernità come un dato preoccupante, negativo, e tendevano a rescinderne i legami con gli eventi del XVI secolo. Sulla scia di opere come quelle di Heusinger, Lucien Febvre aveva avviato con le sue opere un modello di periodizzazione che portava verso un medioevo lungo, capace di inglobare tutta la prima età moderna. E la questione della modernità e delle sue origini si fa in genere molto meno importante, mentre avanza e prende campo la questione della periodizzazione interna dell'epoca che abbraccia medioevo e rinascimento. La stessa espressione rinascimento conosce in questo momento una fortuna notevole, storia del termine, periodizzazione, eccetera, proprio in quanto appare idonea a definire un'epoca in cui si vedono gli elementi di continuità con quella precedente, mentre non vi si vedono più o appaiono sfocati rispetto a prima gli elementi di modernità. Tutto questo meriterebbe evidentemente ben altro discorso. Lo si accenna per rilevare l'importanza di quell'accenno di Yedin che ci permette di capire meglio il senso di quella divisione in periodi della storia della Chiesa che alla data di questo articolo egli aveva già proposto da qualche anno. Alludo, come ovvio, ai due scritti comparsi nel 1945, il saggio su Riforma Cattolica o Controriforma e la conferenza celebrativa del centenario del Concilio Tridentino apparsa su Gregorianum. Qui le linee indicate nel saggio del 31 diventano esplicite, si avanzano precise indicazioni terminologiche, delle quali si è già parlato, e soprattutto prende forma una suddivisione in periodi della storia della Chiesa intorno al Concilio di Trento alla quale Yedin resterà in seguito fedele. Il concilio vi appare al centro dell'età delle riforme, un'età che non figurava nella tradizionale partizione tripartita, antichità, medioevo ed epoca moderna. Yedin accetta un'indicazione tradizionale della storiografia tedesca e non solo tedesca, sulla riforma protestante, che cioè, cito, essa muta nella sua essenza il quadro della storia della Chiesa, fa epoca per se stessa. Tuttavia, nota Jedin, cito, la riforma, ovvero la frattura religiosa, non provoca affatto la fine dell'unitaria civiltà occidentale, così come il cristianesimo l'aveva creata, ma la fa rifiorire a nuova vita con azione parallela e reciproca a quella della riforma cattolica e della controriforma. Solo nel secolo XVIII si afferma la civiltà moderna, i cui caratteri sono la rivoluzione, la secolarizzazione, la divinizzazione dell'umanità, eccetera. Chiusa citazione. Questo lungo periodo di transizione ha al centro il Concilio. Riforma cattolica, riforma protestante, controriforma trovano nel Concilio un passaggio nodale. È un'epoca dominata da forme transitorie dove il nuovo, cioè l'affermazione dell'individuo, il mondo moderno, non riesce ancora a sopraffare il vecchio, cioè la continuità col mondo medievale. Alla posizione del Concilio di Trento nel corso della storia della Chiesa è dedicata anche la conferenza pubblicata su Gregorianum. È un testo che fu poi ripubblicato con qualche ritocco, alcuni dei quali volti ad attenuare i toni commossi ed occasione della conferenza. Uno mi sembra da rilevare perché identifica una fonte interessante. Non c'è dubbio, scrive Jedin nel 45, il Concilio di Trento risuscitò sotto molti aspetti il Medioevo. Fu esso dunque, mi si permetta questa espressione, reazionario? Fu esso un artificioso prolungamento del Medioevo? Sì, conservatore esso fu certamente, ma d'altra parte favorì il vero progresso. Chiusa la citazione. Questo concilio che sta fra due epoche, quando il Medioevo è terminato e l'età moderna non è ancora giunta, deve essere dunque difeso dall'accusa di essere stato reazionario. A chi pensava Jedin nell'adottare questi termini insolitamente politici? Un rinvio in nota poi scomparso lo dice chiaramente. Penso qui, dice Jedin, ad opinioni simili a quelle di De Ruggiero, storia della filosofia. Opinioni come quelle che De Ruggiero allora volgarizzava, rendendole qualche volta più grossolane, e bisognerà ricordare la funzione di summa scolastica che quell'opera ha assolto per generazioni di italiani, erano di tutto l'idealismo italiano. La polemica di Jedin era quindi prima di tutto con Benedetto Croce, ma la stima che egli aveva del filosofo ed erudito napoletano, col quale discuteva di Vico, scoprendo di parlare nella stessa lingua, come scrisse più tardi, gli impediva forse di addebitargli per intero certe responsabilità. Va registrato comunque questo ricorso ad una terminologia di tipo politico-ideologico, reazionario-conservatore, che si affaccia nell'opera di Jedin per influsso della tradizione idealistica italiana. In proseguo di tempo, Jedin vi fece però ripetutamente ricorso, ed esattamente quando il Concilio Vaticano II impose una riconsiderazione del posto del Tridentino nella storia della Chiesa. Prima di esaminare rapidamente questo secondo momento, questo vorrei chiudere, vorrei ricordare uno scritto di un momento intermedio tra la crisi del secondo dopoguerra e le grandi aperture e speranze e attività conciliari. Si tratta delle pagine pubblicate in Germania nel 1956 sul tema Universal Kirche und christliches Abendland. L'anno prima Jedin aveva presentato al 10° Congresso Internazionale di Scienze Storiche quella relazione sul tema che gli stava particolarmente a cuore, l'idea di Chiesa, quella relazione di cui si è parlato stamane. E qui il Concilio di Trento era visto come momento culminante, ma non finale, di un dibattito ecclesiologico iniziato nel tardo Medioevo, portato fino a conseguenze di rottura da Lutero e che rimaneva aperto sul punto cruciale dell'autorità papale. Pur in assenza di esplicita sottolineatura dei contorni, era evidente anche in quella relazione la volontà di disegnare una fase intermedia lunga tra la fine del Medioevo e l'epoca contemporanea. Una fase nel corso della quale continuavano ad intessersi questioni originate nel Medioevo senza che nessuna forbice storica intervenisse a tagliarle. Ma il disegno di storia generale venne esplicitato nel saggio dell'anno successivo, anche perché la sede, non scientifica, consentiva una diversa accentuazione ed esplicitezza. Quel saggio era nato probabilmente, anzi certamente, dall'impressione che Jedin aveva ricevuto dall'allocuzione di Papa Pio XII ai partecipanti al congresso di Roma, un'allocuzione che aveva colpito anche altri partecipanti a quel congresso, ricordo che anche Cantimori appunto la sottolineava nei suoi epiloghi congressuali. Vi si ritrova, nel saggio di Jedin, un identico bilancio positivo, pieno stile, si sarebbe tentato di dire, Pio XII, della universalità della Chiesa negli ultimi secoli, del suo distaccarsi dalla specifica cultura dell'Occidente europeo per aprirsi al mondo. E comunque Jedin ne approfittava per ribadire le sue idee già note, e cioè che, in primo luogo, la Kirchenspaltung del Cinquecento non fu l'inizio di una nuova era, che lo fu invece, in secondo luogo, il Settecento, il secolo della ragione, illuminismo, secolarizzazione, rivoluzione, sono ancora i tratti caratterizzanti per il... Il bilancio positivo, il momento forte dei rapporti fra quel passato ed il presente, era in questo caso costituito dal fatto che con quella cesura si era liberata la Chiesa dal legame esclusivo con l'Occidente e con la sua cultura, si era aperta a prospettive universali, tanto che, concludeva quel saggio Iedindo con allusione alla cristianità americana, un eventuale concilio da tenersi nel terzo millennio avrebbe potuto riunirsi non più a Trento o a Roma, ma a Chicago o a Bombay. Il concilio, come nessuno poteva allora sapere, non attese il terzo millennio, non si riunì né a Chicago né a Bombay. Quando il concilio Vaticano II fu annunziato, divenne una realtà, ecco cominciare una nuova fase, che accennerò rapidissimamente, nell'opera di periodizzazione di Iedin. Una fase nel corso della quale le grandi linee già tracciate non vennero cambiate nella sostanza, ma dovettero venire adattate ad un presente che subiva forti trasformazioni e subirono alcuni lievi ritocchi di tono. L'occasione più organica per un simile discorso, a parte dei cenni sparsi, non fu tanto la sommaria sintesi della breve storia dei concili, dove Iedin si limitò a ribadire, quanto a inquadramento generale, che Trento doveva essere considerato come l'ultimo dei concili del tardo Medioevo, ma fu piuttosto il volumetto del 1968 sul Vaticano II e il Tridentino. Il sottotitolo dice chiaramente in che senso avviene il confronto, tradizione e progresso nella storia della Chiesa. Ecco tornare dunque alla terminologia politica, politico-ideologica, che già avevamo visto. La fonte stavolta non era però quella idealistica di stampo crociano, ma con la quale Iedin aveva discusso nel dopoguerra, era dalla sua stessa esperienza all'interno del Concilio Vaticano II che gli venivano suggeriti i due termini, come viene detto a chiare lettere nella conferenza dello stesso anno 68 all'Università Cattolica di Milano, dal titolo «La storia della Chiesa è teologia e storia». Tradizione e progresso, cito. Questi due concetti sono divenuti già durante il concilio parole d'ordine, si è quasi tentati di dire slogans di partito. In realtà non c'erano partiti, dice Iedin, ma correnti che si fronteggiavano, tradizionalisti e progressisti. Io non ho l'intenzione di infilarmi in l'una o nell'altra. Infatti, come storico della Chiesa, so che i concetti di tradizione e di progresso non possono essere separati l'uno dall'altro. Essi formano una coppia di termini omogenei. Tradizione senza progresso sarebbe cristallizzazione, progresso senza tradizione sarebbe rivoluzione. E queste sono le coordinate con cui si affronta nello stesso anno il paragone fra i due concili. Essi vengono inseriti nella vita concreta della Chiesa come momenti che non si contrappongono ma si integrano, le cui innegabili differenze si spiegano sottolineando la distanza storica che li separa, la frattura di continuità che si è creata. Il momento di frattura è ora, accanto all'illuminismo, più di quello, il secolo successivo. L'Ottocento del marxismo, dell'avvento delle masse alla ribalta della storia. La Chiesa di questa frattura ha tenuto conto, osserva Iedin, e ha cominciato il confronto col marxismo e con le religioni mondiali. L'epoca tridentina è lontana. L'immagine che allora si diffuse in certa pubblicistica del Concilio Vaticano come termine finale dell'età della Controriforma è polemicamente confutata da Iedin, che prende spunto dal libro di Campe. Si sottolinea inoltre il carattere non restaurativo, restauratif, ma di vera e propria riforma del Concilio di Trento secondo moduli consueti nell'opera di Iedin. E tuttavia l'attenzione al presente resta sempre forte e il passato è chiamato a confermare la giustezza di scelte e di orientamenti nell'immediato secondo una linea di prudente conservazione, una linea almeno che chiede per se stessa l'appellativo di conservatrice come attributo positivo. In una conversazione radiofonica, poi pubblicata in volumetto, in occasione del centenario del Vaticano I, Iedin ripercorse a grandissime linee la storia della Chiesa, individuandovi due soli momenti di grave crisi, quella connessa alla caduta dell'Impero Romano, alla crisi della cultura romano-ellenistica, e quella del papato medievale sfociata nella Riforma e nel Concilio di Trento. La sede in cui il discorso veniva fatto, facilitava accostamenti e semplificazioni, naturalmente, di questo si deve tener conto. Tuttavia Iedin non si è mai sottratto a compiti di semplificazione per rendere più chiaro il discorso, il senso del suo lavoro. In questo caso, alludendo al moto luterano, si dice che allora chiunque voleva la riforma della Chiesa era progressista ed era favorevole a Lutero. Ritorna la coppia progressista-conservatore. Conservatore è il Concilio di Trento, che conserva il bonum fidei, restaura l'autorità papale, Ma stavolta Iedin si spinge ad un discorso più generale sul significato di questi concetti, sostenendo che la Chiesa non può considerare validi al suo interno concetti e criteri elaborati dalla tradizione liberale e da quella democratica per la società politica. Questa questione del trasferimento, dell'uso indebito in campi diversi di certi concetti è una questione che stava molto a cuore e che ribadì anche discutendo, almeno oralmente, il saggio di Reinhardt di cui si parlava stamane. Ma in questo caso quello che premeva Iedin ribadire è che la democrazia non può valere per la Chiesa, e ciò vale a rafforzare la positività dei momenti di conservazione. Le preoccupazioni nei confronti del presente, che in quel discorso non erano certo tenute nascoste, affiorano spesso negli scritti di quest'ultimo periodo. Ma di questo non è forse il caso di parlare. Piuttosto vale la pena ribadire, con questo concludo e mi scuso per la lunghezza del discorso, la continua sostanziale fedeltà di Iedin ad uno schema di periodizzazione del posto del Concilio di Trento nella storia che gli era suggerito insieme dalla lezione del passato e dall'esperienza del presente, e nei termini suoi dalla Chiesa della Fede e dalla Chiesa della Storia. Grazie.